inizia il nuovo ciclo 2017-2018 riguardante prove tecniche di trasmissione. Spazio esistente ormai dal lontano 1992, condotto in coppia per 3 anni e poi in splendida solitudine fino ad ora. Il palinsesto di oggi non dovrebbe prevedere 25 o'clock e quindi dovrebbe tornare la prossima settimana, vedremo. E quindi il palinsesto teoricamente finisce con noi intorno alle 22.30 allo 0649 1750, al contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info, anche per sfruttare il nostro streaming che ci porta in ogni parte del mondo. ondarossa@ondarossa.info invece è il riferimento email. Altro riferimento invece importante è lo spazio Facebook di questa trasmissione di Disorder del lunedì sera, e non a caso si chiama per l'appunto prove tecniche di trasmissione /Disorder. Qui ci saranno le playlist e i podcast, cosa rintracciabile anche ovviamente sul sito della radio stessa.